chi è? Chi è che sta facendo un bordello? Hola, hola, Coca-Cola, si intende i roghi, cibi giù, attenzione a cucci di Antonio Gatti. Hola, hola, hola. Attenzione. Ok, avanti. Io Duce. Sì, dove sei? Qua, al rifornitore via Milano. Sì, già nove. Scappa. Ma poi mi fermo, voglio vedere. Non fermatevele. Scappa, esista un attimo, mi metto il punto. Mi metto il punto che era l'altro giorno. Mettiti lì, vediamo. Sono già qua, ok. Sei fermo? Fermo. Ora adesso sono attaccato. Nove, nove. L'altro giorno nove non ci arrivavi, eri tra il 7 e l'8. Stacco. Adesso com'è stato? Adesso staccate 5, fate il conto. Da 5 vai a 9. Ho capito questo pezzo qua perché è così. Cosa tu? Perché sei. È una zona, non è una zona bella quella, dove c'è il fornitore. La zona bella è dove c'è la discoteca. Proprio in punta. Dove c'è la discoteca? Lo sai dove è la discoteca? Davanti al cancello della discoteca. Ma non è una zona bella per te? No, non è una zona bella per me, perché non ti vedo. Invece se sali appena più su dove c'è la discoteca, allora lì ti vedo bene. Capito te. Però già si vede l'incremento, Ma molto, molto meglio con l'antenna rispetto all'altra. All'incirca ho notato, allora io ho notato una cosa che c'è quasi la matessi grossa. Cioè, questa però in proporzione, questa rende di più di quella là, capito che è più grande. No, quella rende di più perché è un tubo in rame, capito, con due cariche, quella là non ne ha di carica. Capito com'è? Ho capito perché stanno costruendo questa moda qua, cioè vanno meglio queste. Quelle sono antenne di vecchio stampo. Non lo so se la fanno ancora quella lì. Sono arrivato al cancello, Al cancello della discoteca, sì. Io non sì. 9 più 10 sei arrivato. Te l'ho detto, che è una differenza allucinante. L'ho già fatto le prove io lì. Questo per essere cosa un po' pochini sono, per 9 più 10. Cosa? Per essere, come si dice, per essere proprio forse un po'... Per essere qua sotto, sono pochini sono. Cosa vuol dire pochini ancora? La ricezione mia non è che sia così alta. 9 andare al centro ecologico, vediamo. Al centro ecologico non arrivavo in fondo scala. Vediamo un po' com'è la situazione. Sto salendo io, No, va a salire, vediamo. Cappa. Sì, magari poi, cosa ne so, a Iti magari arrivo più forte. Può darsi pure, può darsi pure. Cappa gatto, però con l'antenna dico funziona molto molto bene. Io la usavo con la 48 modificato, cazzo era una bomba. Sta salendo. Sali, vediamo. Cappa, sono quasi arrivato. E io sono al cancello qua. Della scuola. La scuola dove? Cavolo si chiama. Quella che è rossa. Qua centro ecologico sono. Centro ecologico, 9 più 30, sì. Già va bene, va. Io già ho avuto in macchina, sì, con quattro. Con quanti watt sta uscendo quel lineare? Sono una cinquantina. Va bene, per me va bene, poi non lo so ancora. Non lo so, per me va benissimo, poi devi provare con Gianni, magari, capito, in città, non lo più resa, cioè in proporzione la resa è più alta, capito? Ma non te ne accorgi della ricezione, come la ricezione rispetto all'altra? No, che quella la riceveva, niente da dire, cosa, però in proporzione. Kidda è mastodontica, questa è più piccola e rende quanto quella lì. Sì, la resa è uguale, però ti ripeto, il segnale è molto forte. Invece adesso è 9,30, ma la rifornitore è S9. S9 è un buon segnale lì, è un buon segnale per me, non lo so. Sì, no, te l'ho detto, in proporzione è la stessa cosa. Cioè, stiamo parlando della... cioè, la resa rende più questa che quella che è mastodontica, capito? Ho capito. Tenendo conto, Giulio, guarda chi non si attende, mamma mia, che sembra un giocattolino, se li metti un baracchino più grosso, non sai come rende quell'antenna. Lo sto aspettando. Sto aspettando a ritirarlo. Quello che sta al sistema mantonello. Visto che pompa io. Vedi, lui è più basso, se ad esempio 9,40 rotti. Sicuro sì. Sei già quasi a fondo scala. 9,50 sì, abbondante. Sta pagato. Adesso lo sto sempre 60, tutto. Invece 80. Adesso sei sopra il DB. Nel 4,40, 9 più 70. Va bene. Sì, oggi va bene. Scappa. Sei fondo scala, tu sei fondo scala. Poi vabbè, ti ripeto, S9 via Milano è buono. Per me è buono, perché io gli ho già fatto le prove, lì ho il rifornitore e ho punto un bel balordo. Ci sono troppi palazzi, capito? Sei troppo chiuso. So, allora va bene. Quando mi metto una portata, ti potevo dare qua. A me non si giocano col muro. Ehi, non è buono, è importante, già non venisci un po', è importante oramai. Sono finiti i giochi, è importante. Sì, bravo. Già te lo dico, quando ci vediamo, bravo. Ancora bisogno importanti, vabbè, io ormai non sono più presente come prima, però mi sembra che sia rimasta poca gente per rompere le palle. Ah, sono storie vecchie. Ho capito. Vabbè, io magari non c'ero e quindi non so niente. Ti rammoguro la mortante. Vabbè, il profè. Come fa a ridere un profè? Lo sai. Lui è chi è? Chi è avanti che vuole entrare? Allora buona, importante a noi. Non è per il calcio, tu puoi fare importante a noi. Però ormai soprattutto. Importante, ragazzi. Era S8, 6960, dubbi. Esatto, non l'ho manco riconosciuto, sono manco chiede, vabbè, non si è presentato qui, non c'è problema. Dai, è 100, così è. Prevente, crack, non prevente. Una volta. Questa la sai cosa è? E pure, dove può dire che è una domanda, ragazzi. Una cosa. Quelle sono così brutte, capito? Quelle sono così brutte, quando poi vai a scoprire chi è, quindi ma non glielo preso, ma cosa? Così, magari per sfizio. Poi va bene, ma futti bene. Ti hanno pure la portata. Come pare che su Massimiliano, mi pare. L'ho voluto, buon notte. Buongiorno, mettimi la portante, che talmente è cattivo, non si presenta, io non lo riconosco, non so se è un buco. Pura la chitarra di un letto. Non si mio? Sì. Si attacca, chi si dice ti fa sbattere la giamba? C'è un drone, cazzo, è poco bomba. Sono da tanto non lo sento qua, ma l'ultimo che avevamo fatto, Massimo, qua c'è un segnalone che andrà attacca. Ma mi pare niente dalla porta, no? Ah, lo so, è un cane morto, non si vuole presentare. Ma io non l'ho riconosciuto, non voglio dire che chi non è. Non l'ho riconosciuto perché sono da tanto, non lo sento, però. Se lui era quasi nove, già è un ottimo segnale per me. Ma fatti di qua, la noi sì no. Ti la bocca la portante. già è lui. Vabbè, buonanotte. Vabbè, tutto roggere. Adesso già senti la mazza. 9:20 stai arrivando. Massimi, mi sta provando la radio in macchina, Antonio. Ehi, positivo, dai, io mi stavo entrando a fare la luce, ho acceso e sono passato a salutarvi, dai. Antonio, vado la radio, Antonio. Si può dire in radio, non lo sai come scherreggia. Ma da casa mia esce una bomba, esce. Ciao, Bomboni, buonasera, ben ascoltato, dopo un maremoto di tempo, dai, tutto oggi è una bomba, Massimiliano. Dai, partecipiamo, facciamo finta. Che cosa hanno, Massimi? Quello tutto colorato? Ehi, quello lì, dai, col drone. Ehi, è meglio capitato, vero, che l'ha attaccato. Se 9:20. Ascolta, io come sto andando? Quando l'azione c'è la mia. Sempre il solito, cari a gas. Papà Massimiliano. Adesso pure io la casa esce un bel po', Jimmy. Quando vuoi, io tanto ce l'ho anche sull'escavatore, possiamo fare delle prove dove sto lavorando. Noi siamo sempre lì sul 5. Non mi hai detto che sul 5 la mattina sono a casa, anche ieri mattina non ero incasinato, ieri mattina ero a casa e stavamo parlando sul 10. Mi sposto sul 5 e ti chiamo ogni tanto. Dai, positivo. Va bene. Antonio, com'è che arrivo da lì? Bene? Bene. Sono qua, c'è tre colori. Va bene, tu sei il Santiago 9 qua. Cazzo, ma chi sei scendendo in scena tu? Non stai scendendo bene. Non sto scendendo bene, non si sente ora. Adesso sì, poco fa no. Capita che fa la brospera, ogni tanto. Troppo volante quell'impianto, l'ho visto stamattina, devi cercare di sistemarlo bene. Tanto fissare, tutto troppo volante, capito? In modo che si bene. E poi trovare un microfono preamplificato, non c'è radio, non Massimo. Ma è un po' bassino, ma non è che c'è l'87, no, c'è un 87 lì. Non manco no. Cos'è? Non manco no. C'è qualcosa che non va sul microfono, Antonio? Hola, si sente? Però sei un po' spezzettato lì. Sì, ogni tanto va a chiamare di Maria Clara. Perché lo tira, Massimiliano? Lo tira, capito? L'ho visto come ce l'ha. Ti ho dato quella frusta nera, ti ricordi quella frusta nera che avevo io? Si è piazzato quella. Bravo, sì. Cosa intanto l'attacco era diverso da quello... Dai, mi ha fatto piacere, io me ne vado a fare una bella doccetta. Tante cose belle, un forte abbraccio e ci sentiamo. La Radio Bulldozer vi saluta e vi auguro un buon fine di giornata. Ciao ciao a tutti, dai. Ciao, un giorno proviamo da casa, beh, quanto ti arriva. Oh, Bulldozer. Ehi, Anto, dai, la proviamo, quando magari questo fine settimana. La casa arriva molto forte. Cappa Roger, va bene, ciao Antonio, mi ha fatto piacere, ciao Claudio, un abbraccio e ci sentiamo. Ciao Massimi, un abbraccio anche a te, saluti a casa, dai, ci aggiorniamo, fatti sentire ogni tanto. Ciao ciao. Vai Antonio, tieni duro, ci aggiorniamo più tardi, a casa stai andando. Non ti ho sentito, cosa hai detto? Andando a casa. Ok, cerca di mettere bene quel cazzo di microfono. Cosa cazzo va, boh? Ogni tanto non esci. Forse come lo tiri. Ma quello lì non è a ghiera. C'è. Cosa? Ma ce l'ha la ghiera. C'è qualcosa là che non va bene. Tu controlla bene il microfono perché ogni tanto non esci. Non rammara, vai. Ok, dai, vai a casa e ci sentiamo da casa che devo fare due cosette. Comunque la radio è accesa, ok? L'antenna già va bene. Yeah, ciao ciao. Ciao a tutti, ciao. Hola. Sì. Attenzione, binario 10, c'è qualcuno? Hola, attenzione al canale 10, cambio. Beh, Ciccio, tu c'hai già la pasta che è pronta. Non l'ha mangiata ancora? Ui, biondo! Col sedere pallido. Beh, so, da posto, sì. È niente inutile, buonasera. Sì, non sapete che si va avanti, dai, portate quella. E adesso, sto guardando un film su scherzo. Su Sky. Adesso ho spento la giudizia a vedere che uno in frequenza, che questa frequenza è morta. Ma gente ogni di come la giamma muscia che te già tutto in prendi forse le 7. Ma non è preso, rimani, non so perché sei entrato. È un bel diventa, rimani. Se sei entrato 2 minuti, vai, verrà Antonio e Salviero. Le notte? No, è molto prima allora. C'erano altri. Sì, così ce n'erano. E che è Gio Maria che ce l'ha fatta? Chi? Gio Maria. No, non ho la più inteso, non ho più inteso. Ma con il telefono, anche non faccio il tempo io di chiamarlo. Se ritira di tutto. Intanto, cosa, magari ascolterà, non c'ha voglia di parlare, magari rimane ascolto. Ebbe ombre! Ui, Ciccio! Ci nomi? Ui, Tomi! Buonasera a tutti, ciao! Vai, Antu! Uto! Ciao, Tony! Ciao, Antonio! Ciao, Tore! Ciao, Antonio! E ciao, Ciccio Mone! E buonasera a voi! E poi che sarà cubito? Una volta mi pare che sia il fracco, così è. A me si intende. Allora, raga, Antonio ve ne è uno solo. E poi cosa su questo fracco? E da una volta mi pare il fracco, mi pare. Oh, su questo fracco, no. Antonio, il cazzo è sempre bello pimpante, bello asillo. Da Edu. Aspetta che mi prendo un toroncino. Se parla il tuo sogno. Niente. Bobo, c'è una femmina a cucine. Succede. Pure io sto diventando grande. Già da te. Faccio già 41, maggio. Cazzo, metà mia, c'hai gatto. Forse tu ne hai 51, no? 41. A danno i vai tu. 41. Non imbroglia più nessuno. Madonna, ma l'hai visto quel posto che ho messo? Che bei tempi, porca miseria. Lo dram via di Trento. Quindi non tornano più. E quando c'era il fornitore, lì a Costa Trinità? Un mio amico ci lavorava, fratelli Tanda, ma Santoro. Cazzo, uno due benzina, uno due miscela, giù buchi, mi sono fornito. E anche con il tatacastello, sì. Vicino al verde. Altri tempi. Guarda, infatti io in un posto a Giomburgo hanno fatto vedere che allora c'era l'autista, dico che c'era, non l'autista, no, quello che timbrava i biglietti, da Giomburgo ben in chiaro, di te che non facevo tutti i randaggi da mano, perché uno andava, pagava il biglietto, era tranquillo, era, cioè, allora è pieno di randaggi. Sì, il controllore era che faceva il bigliettaio, dai. Allora pagavano i tutti e travagliavano i tutti. Adesso tutti punendo multe, rovinando famiglie e cose, punti cattivi, gazzate. Cioè, che perché basta magari che ti... Una gazzata, cioè, veramente siamo diventati al punto che... basta una cazzatina nostra, ti muovi subito la multa, una stupidaggine, magari come è capitato a me, che mi hanno venduto il biglietto difettoso, sono andato dall'autista, non è che tu mi ha fatto, no, cazzo così, poi se mi mette la multa, dico che è stato lì, ho lasciato così il biglietto. Sto parlando di qualche anno fa, ecco, da voi ne è andato un coso che si sarà pigliata con me, come sta portando la multa, cioè ma mamma c'è il bello simile, invece prima c'era il bigliettario, le cose, cioè erano tempi seri, no? Siamo arrivati al 2026, che siamo sempre in peggio, a chi vuol far del male, boh. È diventato uno schifo, lo so, è diventato tutto uno schifo. Ma io quando devo prendere il vostro biglietto, faccio dimbro, e mi posso una base, che mi faccio il controllo, mi fai vedere il biglietto, basta. Ciao e arrivederci. Sì, ma è capitato un mese volte che c'era il biglietto difettoso, che non funzionava. E prima erano difettosi, ma vanno, si bisogna funzionare bene. Io parlo di qualche tempo fa, quando mi hanno grembato, quando altri si sono appuntiti, cioè veramente incredibile qua. È capitato pure a me, è capitato, solo che a me l'autista ha risposto, no, è difettoso, guardato io era difettoso. E invece a me... Se non è male puntito. Vado a controllare, timbrava, vedesi, timbrava, se funzionava, magari con noi da voi ha funzionato. Scappa. No, con me, se non funzionava, c'era l'autista che ha risposto, diceva che non funziona la macchinetta. E una gradanza così, allora si filmava e abbaltava. Allora guardate, controllate, ha provato e timbrato. E allora, sai quanto cantano in bocca molto, duro, chi su capo pirito, chi sa fatto di carriera, chi su Matteo si difende vero, per di tutti i campi, guarda che il no signore, Baedo, era così e basta, ha portato la multa. Cioè, la multa a volte, cioè, ma veramente guarda, ti giuro, non. No, è vero, non c'è, mi sa che il rispetto è finito per tutti. Infatti, l'unica cosa che ci può andare, cioè se non vuoi timbrare il biglietto, nel metro sali, devi mettere soltanto la scritta con la data di oggi, allora devi mettere. Se no ti ne affutti, tanto cose non è controllo, non nasce. E lì è tutto a... perché non è gestito da, è gestito dall'atto, non è gestito dall'ATP. Biglietto prego. Ciao a tutti, volevo chiedervi, visto che state parlando di biglietti del tram, io quei biglietti che compravo in tabacchino, mi pare 2 o 3 anni fa, quelli in cartoncino, ma quelli valgono ancora o sono digitali adesso? Com'è che funziona? Vai, Dore. Non so che quelli hanno finito di vivere, perché io sono salito l'altro giorno, c'era una signora in Via Dui e tutte e due non funzionavano, però è salito il controllore e gliel'ha cambiati, gli ha dato quelli buoni e quelli li ha ritirati. Vabbè, no, per saperlo, perché io ho sempre portato, buonasera a tutti innanzitutto, io l'ho sempre portato i biglietti del tram, metti che ti si ferma la macchina, hai necessità di tornare a casa in tram, oppure cosa ne giungo, ce l'hai dal meccanico, o non ti senti bene, non hai voglia di guidare, e quindi io i biglietti li ho sempre tenuti del tram, e me ne sono avanzati 3 o 4, una cosa del genere, no, meglio saperlo prima, non sia che trovi il controllore stronzo e dici, la dovevo sapere prima e magari ti fa la multa e ci guadagnano anche di più. Vai a tutto. Guardi, quello che sto dicendo, che in quegli anni c'era molto più rispetto di adesso, c'era il bigliettiere, salivi, tra l'altro faceva a posto e pagavano tutti. E altro, ma che si deve, sono finito ormai è tutto elettronicamente. Adesso se c'è quei biglietti gialli, sale il controllore, te li cambia, perché ce li ha lui e te li cambia. Gli dice, oh, questi non valgono più, e te li cambia lui. Lo numero sogno, padre. Ma signora, vi racciambati, ha detto, no, aspetti signor, e gli ha quelli, era dato che di nubi ha dato. Ti ha timbrato uno, era dato che si nubi. Ha fatto bene, perché è tutto digitale, c'è il corrode, il cazzo di giamma. Oh, ne moto e tre ci sono tutte e due biglietterie, tutte e due macchinette, per quelli gialli e per quello blu. Ho capito. Avevo i bocci elettrici murughissimi. Qualcuno è salito su quei tram elettrici? Qualcuno li ha provati? Io no, perché adesso ho la patente, quindi ho più la macchina, ho più la moto. Secondo me devo andare là sulla macchina in casa e a Segurudra, anche non per il parcheggio, devi fare mezz'ora. Per esempio, se è già stata la dottoressa, devo andare a 3 ore, faccio a fare posteggio, quindi a centra e me ne vado in tra. Sì, ma il bello che ti trasporta, non devi guidare, insomma. Certe volte, guarda, quando uno davvero non vuole andare, tipo via l'Italia, che è un casino, vicino alla standa, eccetera, capito? Se ne vuole tornare tranquillo, senza andare a piedi, si prende quello. Guarda, va bene. Manuele, riprendi. Mi sa che Manuele si è ritirato. Ehi, Tore, mi copi bene di radio? Perché ho cambiato configurazione. Fa voglia. Taglio 5 perfetta con appena appena di ecco e 9:20 di segnale. Ah no, ecco, l'ecco l'ho tolto, non me l'ha accorto, sono senza occhiali e non avevo visto l'iconetta dell'ecco, adesso l'ho tolta, vabbè, l'avevo usato per farlo funzionare più che altro. Va bene, signori, vi lascio ai discorsi e stavo facendo qualcosina in casa, poi se posso rientro dopo. Gianni sul 12 per ora, ci sentiamo. Ciao a tutti, ciao. Vai Antonio. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ma... Oh Marco, va. Ci sentiamo. Avanti Otto. Sì, infatti è così. Infatti venerdì, domani devo salire su al policlinico a ritirare gli RFT di una signora e devo salire su. Io me le volevo scaricare, invece la mia non voglio che devi salire su. Ma ce l'ha anche Tonino, Tonino ci sei? Ma c'è Tonino, ci sono io. Beh Claudio. Com'è? Ciao Otto. Ciao Claudio. E allora, dottoressi? Ehi, ma peggio io non avevo uscito. Ma non è vero, può andare peggio mi devo uscire. C'è meglio come lo posso fare, come diceva qualcuno, tanto, stavo a pensarci. L'importante è andare avanti. Andare. Andato. A casa, finalmente adesso. MB4 alla 48. Alla grande. Elenco 10 o 11 che sia, buono è. Elenco? Sì, ma l'ho fatto vedere uno oggi, me l'hai fatto vedere. Dipende che Elenco ci sono, io ad esempio ho un Elenco di quelli abbastanza adattati, che fa anche AMFM addirittura, veicolare, bello, anche abbastanza grande. Quanto è un baracchino più o meno 599, ma è fenomenale, non lo darò mai con la radio perché è un muretto. No, beh, me l'ha fatto vedere uno che c'ha tutte le bande, cioè. Ed è il coso, illuminazione blu con il coso del canale più frequenzimetro, cioè. già lo conosco, vai Marco. E già, ha registrato. Allora, Lincoln DX10 è un buon apparato, guarda che è la versione in scala ridotta come dimensioni del CRT 6900, uguale se si funzioni però è più piccolo, e il display è multicolore, lo puoi fare blu, celeste, bianco ghiaccio, rosso, verde, come ti biasi, anche color porpora, col rosa strano, così. E comunque un buon baracchinetto, c'ha tutte le bande e tutti i modi. Avanti break. Sì, allora, buonasera a tutti. Gianni doppio rum. Buonasera a tutti. Sì, dai, fa vedere l'odore, sì. Staccato ti sei, bello bene. E qua non c'era nessuno, quando io sono entrato, ho girato, ho fatto la spazzolata, per noi sono tutti amici, per cui dopo ho trovato gente mi sono fermato. Poi c'era anche Antonio, quindi... figurati, sono amici miei. So che quando c'è San Pio non entro, perché tanto non mi sente, capito? Non fa. Con le femmine non vado molto d'accordo, ma ogni tanto io già entro a salutare il Gavino, non c'è problema, già ti ho sentito. Avanti, Arto, cosa stavi dicendo? C'era anch'io poco fa, però dovevo cambiare il bambino, quindi poi ho mollato, poi sono entrato qua e tutte cose. Già va bene allora, già va bene. Avanti, Marco. Ma stavo notando poco fa spazzolando, Sanpei è sparito di segnale, è scomparso, arriva 5,5 radio 0 in FM, l'ho sentito poco fa, come mai? Cosa è successo? Si è partito qualche cosa nel Galaxy, quello l'ultimo che ha comprato. E tu ma non è che lo senti, io lo sento anche molto forte, ma lui a me non mi sente, quindi non è che quando c'è lui metto a parlare. Oh Claudio, adesso un giudizio spassionato, c'ho lo stesso Mike Baracchino di, mi pare che quando ci siamo sentiti stamattina o ieri sera, però sto pilotando con 3 watt l'aiutino, dimmi se c'è traccia di saturazione o va bene. Perfetto, se non me lo dicevi non me ne accorgevo neanche, adesso mi accorto dal segnale che è più alto. Qua va bene, ma... Allora che ho ragione io di una cosa. Io ancora non vi ho detto nulla, io ancora. E funziona, alla grande funziona. Nero sicurissimo nero, Non faccio ancora di nulla. Ah, del segnale, via. No, ho messo 3 watt perché magari con i picchi di modulazione, poi se no vai a saturare con i watt della modulazione, sai quel watt in più che ti dà? Allora ho preferito tenerlo 3 watt. Va bene così. Comunque Tore, sì, c'è un bel baracchinetto, se vuoi te lo faccio sentire, magari non oggi, magari domani. E c'ha tutto, c'ha roba di 400 canali, AM, FM, USB, LSB, CW, lo puoi attaccare al computer, li puoi personalizzare i canali. Io gli ho fatto 60 canali per banda, per dire. Oh, no, si può fare così, si può fare. Sì, gira, secondo come va, ecco di portarmelo quando sali su il continente e me lo voglio barare. Guarda, per correttezza allora quel baracchino si chiama DX10 oppure Alinco DR Delta Ray, cos'è? Romeo 135 DX, c'ha due nomi, DR 135 oppure DX10, in base al paese dove lo vendono, capito? Ok, va bene, riprendete voi, vai Claudio Bianco per me, un attimino che vado a bere, e non solo. Gianni vai tu. E Claudio non ripeto, stavo aspettando. Ascolta, ma io cosa c'ho? Picchi negativi o positivi? Guarda, là, c'ho un triste. Beh, già, io ho uno smitteraccio a LED di baracchino e ho visto il segnale anche sul 12, ho visto la differenza, passi da 9.30 a 9.40, tipico, no? Da 9.30 a 9.40, due Santiago. Invece a Coso, a Daniele, da 9 a 9.20. va mi sei incolleni lo smitter, secondo come va mi incolli lo smitter, mi sei incolleni. Però già naturalmente sai già che lineare è in base ai watt, no? Quadruplichi watt e un Santiago in più, li quadruplichi ancora, due Santiaghi, non può essere quattro Santiaghi realistico, li dovresti quadruplicarli ancora e ancora quadruplicarli, sarebbero potenze folli, capito? Va bene, vai Tore. Infatti a me sembrava strano. È strano perché Daniele c'ha anche il K, no? Presumo. Sì, magari magari tu riesci a guardare. Sa, a volte uno sta facendo roba, magari che per fare in fretta dice una cosa così. Vabbè, l'interessante è che vada. Avanti, tu righetto. Ia, è così. Invece in quelle non lo smettere non ha tanto. Ma non ci vuole, arma così. Se ne va proprio a zero. E sì, ma devi prendere l'atta che ti si incolla da sopra. Certo, andiamo a muovere. Staccate lineari. Non ne abbiamo lineari noi. Sono staccati. Poco fa è attaccato, che si è sentito come Saturno. Saturno? Sì, poco fa sì. Perché sei vicino, così, qua c'è Trizio, Saturno. Ho aperto adesso tutto cotto, e tra forse magna. Dunque, salutore che c'è qua, sono entrato anche prima, poi mi sono spostato, mi stavo fucilando. C'era anche Manuele, poi ce n'è andato. Se vedi l'alice di buco, tu di la verità. No, io le cucina, poi non è più di capo da letto, capito? C'è una telecinesa cucina, penso un po'. Cappagappa, e vabbè. Avanti, a chi tocca? Claudio, ci sì. Tino, riprima. Ehi, a capo, no, stavo leggendo dei messaggi, stavo leggendo. Che li fa, mamma mia, qua. No, no, stavo leggendo dei messaggi di lavoro, ma caridare. Gente ignorante. Ma poi quella cosa là a posto? Che cosa? Ma perché ti ho detto qualcosa stamattina? No, non hai capito. A lavoro. Sì, a posto. La parente stamattina mi è mancato di rispetto. Mi hanno mandato, mi hanno mancato e... Pure bigliate a... Cioè, io ho detto, ma perché mi stai dicendo così? Cioè, bigliate ripeto e me ne sono andato. Ho detto, va a mattetevi voi, e quando ve ne siete. Adesso di questa storia non voglio parlare. Se mi rompono molto molto le palle, vi raccontate, fate una cosa, ammattetevi i giganti, ciao. I miei colleghi purtroppo hanno la lingua biforcuta, hanno. Sono sempre a rompermi le scatole, cioè, perché vedono che sono più giovane e cosa, cioè, se che bigliami baruguru, capito? Stamattina, lo so perché mi sto trattenendo, per mio figlio, per la risposta che mi hanno dato stamattina, ad altri tempi l'avevo abusato stamane, l'avrei seduta a pugna faccia. Sicuro al 100%. Però a giubilato ripeto mi sono andato, gli ho raccontato la storia, boh. Poi tutti i prestigi già. No, non è il principale, no. I miei colleghi, cioè, ma come ti permetti tu a dirmi? Ah, a dirmi mi hai rotto i coglioni, cazzo voce, Ti ho detto solo, ma queste bandierine le sono sullo scaffale, devo metterle queste bandierine. Adesso vai là per coglione, non ti dico altro, non voglio dire altro. Tu scusa se ti ho chiesto, cioè queste bandierine, sono le bandierine che si mettono nelle luci, capito? Di una volta che si usavano quelle teatrali. Scusa se ti ho disturbato, ho trasformato, ho detto, oh Titi, guarda che passa così. Ecco, ho detto, vabbè, io me ne sto andando, ciao, per evitare. Se me l'avevi tassi in tempo, l'avevi aggrappato mai, no, che cos'è che fai? sacca papà un papà. L'abbia abusato in chi me ne era andato. E te ne sei andato al lavoro? Esattamente che sì, perché non voglio essere umiliato, non voglio essere trattato in questa maniera. Sì, tu, ma... vabbè. Già ce ne saranno altri. Vabbè, a chi spetta, Marco? Cappa, avanti, Tony. Cappa. E beh già, è lo scarico, sempre zero. È sempre così. È venuto di nuovo l'idraulico. Ha provato dalle pompate a 5,5, la butta fuori. Niente, niente, no. Là c'è solo una cosa da fare allora già. Aprire le mattonelle e rifare tutto come si deve. Sì, sì. Domani non la faccio. Già si troverà il metodo. Cioè, adesso deve cercare una molla più grossa, perché quella che c'aveva era fila. Già, la casa è tua, scusa, tu hai già buttato troppa roba lì, capito, quello che mi hai detto a me, e là si intasa la fettina, capito, quindi io l'avrei fatto, la fine delle mattonelle, l'avrei cambiata, certo qua non so se le trovo, però adesso avrei fatto tu come si deve, è una cazzata a me, va. No, è sfascio, poi non trovo le mattonelle uguali, un casino, bisogna guardare se c'era il cantino dell'angolo suocero. Ora ci siamo lì, le mattonelle di riserva. Intanto devi aprire vicino al gabinettino che c'è di fronte, perché là si congiunge la braga, il casino ce l'hai lì, mica devi aprire tutta la cucina. E poi adesso che mi porta dietro anche l'acqua, io ho messo, mi ha consigliato, come si chiama, Carlo, questo liquido che dice che era micidiale, cosa che aveva sturato di un amico suo. L'ho comprato, l'ho messo, gli ho buttato un po' d'acqua calda, tutta sotto la cucina, l'acqua sopra a cui le neva, un casino, me l'ha buttata tutta fuori. Ebbene, già per cui io ti devi fare quel lavoro perché è più facile, capito? Io sbrigativo, qui c'è il gabinetto, c'è la braga che tutti quanti i dubbi fanno finire la braga, capito? Quella roba che tu butti il lavandino è sbagliato, il gabinetto, perché il gabinetto c'è il tubo d'accetto, mentre il lavandino c'è la 40, il lavello, capito già? Ma io non butto nulla nel lavandino, se pulisco anche il piattino alla scotta, se la si sente tu. Non butto nulla, butto tutto nel gabinetto, tutta la roba, cioè i tovaglioli sporchi e cose, cioè ho butto tutto l'accesso, non è butto la lavandina, non butto nulla, ha tirato, lo sai che cosa, dei filamenti di lana d'acciaio. Sì, ma anche i piedi del cane. E quelli del cane magari come sciacquo lo straccio, quello lì che può scendere. No, io non l'avrei fatto, ma mi spiace. Proprio nella velloga, perché andare che al tempo invece è il casino. Guardate, nella sonda invece si è attaccato un po' di roba. Poi era duro, cazzo, che sembra il malloppo che ha fatto. Tanto la sonda è entrata quasi alla fine, è arrivata quasi alla braga. Io direi di rompere lì poi, vabbè, tu decidi tu, la casa è tua, fai quello che vuoi. Io l'avrei fatto. Adesso mi sussidino che c'è un padrone casa, dico, oh, io ho questo problema qua, se tu lo sai fare, sì, quanto vuoi, 300 euro, e mi dice fallo, perché lo so già, scontiamo con l'affitto, va bene, non c'è problema, è un mozzo, qua per esempio avevo il video che non c'aveva acqua fredda, tanto qua ci bisogna fare un bypass, tu lo sai fare, certo lo so fare, e quanto mi prendi, 80 euro per te che sei un amico, dai, e gliel'ho fatto, quindi, così bisogna fare. Vabbè. Vediamo, adesso vediamo, devo ritornare con il mio amico perché la molla la busca un suo amico che sta lavorando fuori, la deve portare in questi giorni, la porta e ritorna con quella grossa di molla, con quella dice ce la dovrei fare. Vediamo, strano che comunque ci che è mezzo atmosfera, sono quelli già, cosa che batte i dubbi, noi nelle scuole facciamo 3, 3,5, massimo 4, non oltre. Ci capisci un bene? Lo so, ma se non se a 4, 4,5 non faceva, l'ha provato più alto, ha detto la tentiamo, ha provato, toh, me la rimanda indietro, cosa devo fare? Me la rimanda tutta indietro l'aria. Un cadeo di dinamite, vinci. Avanti Antonio. Arriecchime. Riprenditela. Che accoglienza. faccia calda, ciao Tony. Ero andato a prendere l'acqua e poi mi sono distratto. Ma perché Gianni, non hai ancora risolto? Ma avevi provato anche quella cosa che ti avevamo detto? Ho provato tutto, ci ho speso un mese soldi con questi liquidi e basta. Li ho provati tutti, ho provato quello che mi ha toccato, ho provato quello che mi ha detto tu, ho provato il mister Muscolo, li ho provati tutti, e anche la soda caustica. Che strano però, che la sonda non ce l'abbia fatta, la pompa non ce l'ha fatta, addirittura la roba chimica forte, perché il Niagara è forte. Non so cosa cavolo possa essere successo lì. Probabilmente le pareti si sono talmente ostruite con quella roba, troppo bianca, sembra cemento bianco, ed è proprio il detersivo dei piatti. Guarda, noi nella coppetta del lavandino lì si è formato sul fondo questo cemento bianco, una cosa allucinante. Con lo scalpello quasi abbiamo smontato la coppa e poi mezza scalpellata per riuscire a togliere questa roba, una cosa allucinante. Vai Tonino. Scusa, lui usa detersivo come lo uso io, liquido, non ha fosfate che ti fa quel tipo di cemento bianco, quel calcare grosso come pietra. Cioè, io ho fatto la sonda, niente, non ce l'ho fatta, io ho avuto la sonda normale, purtroppo la faccio io. Perché ripeto, io faccio solo lavori idrici, le sto tutte eliminando, cioè non le faccio perché ho avuto l'operazione alla schiena, quindi ho problemi, capito? Le faccio a qualche amico, sì lo faccio, ma altri no, assolutamente rifiuto. Per me, io ripeto, io farei una cosa, vicino a Gabriele c'è la braga, infatti la sonda arrivava quasi vicino a Gabrieto, avevo la mattonella, interessato, per me non è una soluzione, poi non lo so. Quello è calcare, si forma anche se tu non butti la roba, è il calcare che si forma delle palle e blocca tutto, perché c'è nello scarico della lavastoviglie che è attaccata ai sifoni dello scarico, l'ho smollata e c'era l'orifizio che era completamente tappato, per toglierlo lo stesso ho dovuto usare un cacciavite e sgretolarlo, se no non ne usciva. È per quello che la lavastoviglie mi mandava l'acqua indietro, capito? E tutto un casino, ha fatto un casino questo calcare, guarda, non mi viene da dire, ogni tanto li fa la leva, non li comprendo più nulla. A me scusa già, non me l'ha mai fatto, perché allora, niente strano che poi io quando sciacquo tutto quanto, eccetera, c'è schiuma, poi la lascio aperto, la lascio scorrere l'acqua un bel po' proprio, quando non vengo più nulla, si butta via tutto, ecco perché forse non si è formato quel fosfato, capito, quel tipo cemento BC2, non lo so comunque, io ripeto, arrivo il comuto e a pure dire qualcosa, cosa ne so se fai più danno, non lo so, prova già, non lo so, vuoi evitare di rompere, lo so, però arrivato a questo punto sai che il danno è là vicino a Braga, sarà in chimica girata e magari anche il resto del tubo è intasato, cosa ne sai, anche se passa, magari passa la, come si chiama, la sonda passa, però magari fa un buchetto e passa da quel buco, e poi attorno magari c'è tutto quanto il calcare lo stesso, lascia perdere. Allora a me mi ha detto l'idraulico che per farlo l'avevo fatto bene, bisogna rompere dallo scarico, fare tutto il viale che prende il tubo e cambiare il tubo completamente. Ma io non avrei cambiato il tubo, perché ho visto che la sonda arriva vicino alla braga, quindi tutta quella sonda si blocca alla fine, niente strano che proprio dove c'è la braga. Ma mi è staccato un attimino, e avrei fatto quel lavoro che c'è da fare, e poi basta. Andrà bene, scusate, mi sposto un attimino che devo girare la cecciata, se no poi su il casino. Danni, sicuramente dovrei chiamare autosfugo, perché se nel tubo della braga non si può fare nulla, è intasato lì, perché il tubo tuo è libero. Danni, siamo attenti a fare questi lavori così a sfasciare, perché lo scarico che hai tu arriva una colonna montante. Se la mole è arrivata sino alla braga, lì c'è l'innesto della colonna montante. Siamo attenti a chi t'arreca, nemì. Non sai il lavoro che ce la fai, lì c'è rompi la colonna montante. Il condominio ti ricevi in trasferimento. E voi non siete alla colonna montante, dove c'è la braga tua che è collegata alla colonna montante. Aspetta, ma te lo c'ho qua. Non è come dici tu, no, avrei tasato anche il gabinetto che ci avevi tasato. Quindi non attrappate la colonna montante. Avrebbe tasato tutto perché non scaricava. Quindi è soltanto roba del tubo di scarico dal lavello sino che arriva la braga e boh, basta. La braga manco si tocca molto prima dove c'è l'attacco e lo scarico del lavello. Ma tu mi ammira se c'è carbonati, però quando tu arrivi alla braga poi c'è il collettore della braga che è collegato alla colonna montante. Se è lì l'intasamento non crea problemi alla, però le torna indietro l'acqua, a lui l'acqua le torna indietro. Ma il lavello, se no gliel'avrebbe fatto anche il gabinetto, capito? Tra, c'era un casino succedeva. Quindi, così è Gianni, tu il gabinetto ce l'hai libero quando scarichi. Sì, sì. Non fa parte la braga, perché se la braga è intasata, che andava fino a quella montata, giustamente hai ragione tu, ma siccome visto che non lo erano via soltanto il lavello, non diciamo la scarica della quella montata, quindi è solo il lavello, il problema c'era alla fine proprio dove c'è la giunzione tra il tubo di scarico del lavello sino alla braga, tutto qua. Serve da tenere un pezzettino oppure cercare di spostarle 3-4 in ferro per liberarlo, oppure tagliare un pezzettino. Tiro a mettere la giunzione per fare il capito, quindi non è il suo problema. Altre che vado a girare là che non ho girato, porca miseria, che oggi c'è una bella cessata, mi signore, riprendete. Pronto il concerto allora. Non lo so, io anche qua la braga del lavello della cucina è scollegata dalla colonna montante, sulla colonna montante ci sono gli scarichi di un domolo, una bozza. Quindi bisogna vedere lì che cosa, com'è l'impianto, non lo so. Però siamo attenti con le pompe, perché lì i tubi sono il polietilene e secondo l'atmosfera creerai che mi butto, però lo fai danno, non lo fai danno anche a pazzo, capito? Quindi non lo so Gianni, non lo so. Di solito queste palle di calcario che si formano, con gli acidi si sciolgono, con la sonda ci arrivi, la pungi e la spacchi piano piano, se abbiate una bredda. Torino, ma caso non lo so cos'è. Fatto sta che arriva, fa un metro e mezzo, la sonda scende e poi trova dopo il muro, non va più avanti. Non cammina, allora è arrivata sino alla braga. Allora, la mia cucina è fatta così, c'è il doppio servizio a fianco alla cucina, praticamente va dritta, non ci sono curve, capito? Che strano, non so dove camminare, non lo so già, lì bisogna vedere, bene, però lì sai cosa ci vorrebbe? L'ugello con l'ispezione di condotta come facevamo noi, niente, la sonda con l'ugello con la camera diciamo, e vedere cosa c'è dentro, però quello lo fanno, che fa quei lavori di autospurgo, quelle cose così. Sì, già lo so, infatti devo chiamare questo. Già, non è tipo un amico, no. Devi, cazzo, ieri sul canale 12 c'era Pannino che è idraulico, che a me mi ha tasato a Carbonazzi, mi ha fatto un lavoro eccezionale e non gli hai chiesto niente a Pannino. Io sapevo che Pannino lavorava la CIR poi. La CIR, già non arriva a travaglia, Pannino non lavora più, poi al conto suo è idraulico, è bravo pure. Di bagni e di cose, ma stai scherzando? Ma adesso lui c'è lui e parlane con lui, magari si avvicina a lui e è bravissimo Vanino a fare queste cose, te lo risolve lui il problema. Io pensavo che le avessi già detto. No. Dove parlare con lui, c'ha sonda, e pare che c'ha anche la sonda con la camera, con la telecamera per vedere i danni, queste cose, perché fa un sacco di lavoro anche molto, molto belli. Poi c'è la pompa, anche di ultima generazione, non chissà, c'è una pompa molto particolare, capito? E poi ti può dire esattamente che cosa è, mi dici che cos'è fatto, lui ti dice, no, i chivi non si può fare, bisogna fare così, capito? Magari bisogna entrare dall'altra parte, al bagno di servizio, cioè, parla con lui. Dai, ci sentiamo, ragazzi, io vado, devo portare giù il cane. Ciao a tutti. Ciao Gianni, ciao. Alle prossime. Ciao Gianni, buona, sentiamo le prossime. Elogie, va bene, dai. Io rimango un attimo al Corisco, devo fare un paio di telefonate, se ci siete ci sentiamo dopo. Durante ore. Sì, claro, io sto chiedendo subito, faccio due, tre passaggi e poi me ne vado anche io a prendere le passine. Sì, così è, andiamo bene, andiamo. No, io via. Queste sono rotture di balle, rotture di balle, però se c'è una persona competente che ti fa bene il lavoro, problemi non ce ne sono, capito? Ehi, acqua, ma va, pure io ci ho chiuso, ma va a fare da mangiare, ce la risentiamo. Ciao, ciao. Aver sparato assieme. Ciao, Anto. Ciao, ciao. Ciao, risentiamo, va. Ciao, Anto. Claudio, è così, io, mamma mia, no, ce li ho separati. Un coso per la cucina e un altro per il doppio servizio, tutto separato. È così deve essere anche io qua, però sto dicendo, può darsi pure che l'idraulico lo dica, no, da lì non si può entrare, perché arriva sino a un passo e poi c'è la curva, magari la sonda sta toccando la curva. Se invece entra dall'altra parte, dal bagno di servizio, magari ce la fa e lo stasa. Capito? Perché può essere anche così. Non so come ce l'abbia lui attaccato lì, quello della cucina, si è attaccato al bagno di servizio. Non lo so come l'ha fatto. Io so come me l'ho fatto io, anche me l'ha fatto io. Quindi so come la colonna montante l'abbiamo fatta l'anno scorso, l'abbiamo messo i tubi nuovi, anche se è fasciato tutto, era tutto in ghisa, e quindi l'ho fatto tutto a nuovo. E adesso sto tranquillo. Eh sì, la colonna montante è molto importante, perché se si buca fa un danno allucinante a te e anche agli altri. Vabbè. Ok Marco, riprendi, vai, un attimino il bianco, permettono subito. Eia, Claudio, poi vabbè, dopo te lo dico. Eia, che volevo entrare avanti, un bip ho sentito. Dimmi Marco. No, Claudio, l'altro giorno mi avevi chiesto un controllo di radio, proprio ieri mi pare. Stavi andando bene. Oggi invece la modulazione diciamo che è veramente al limite. Tant'è che devo abbassare il volume per ascoltare loro. Per ascoltare te lo devo abbassare e poi lo devo alzare. C'è proprio al limite, è fortissima, anche troppo. Infatti, ho sbagliato.